qua nuovamente in diretta, ho fatto ripartire la sigla, sempre in mostra siamo e quindi pittori del Settecento tra Venezia e Impero, ovviamente si parla di Impero Asburgico, l'arte attraverso i territori del Friuli Venezia e Giulia. Il Friuli, con sto parlando della suddivisione attuale nella regione Friuli Venezia Giulia, il Friuli con le province di Udine e Pordenone, la Giulia con Gorizia e Trieste. Mi raccomando, non fate confusione, perché giustamente, anche se vogliamo, c'è un'appartenenza territoriale al quale c'è un... ci tengono, ecco, per dirla in maniera molto chiara. È come non pensiamo a Emilia Romagna, noi siamo molto più, per così dire, un po' più tranquilli, ecco. Ciò non toglie che ci sono delle motivazioni anche che si perdono quando questo confine invece era molto permeabile, a dispetto di quello che si può pensare nello svolgimento del tempo, poi con una netta divisione, con qualcosa di più divisivo che allontanasse. No, ai tempi della Serenissima tutto ciò invece, come è stato definito dallo stesso dottor Alessandro Quinzi, era molto più permeabile di scambio culturale e non solo, di scambio commerciale. E poi la storia, purtroppo, come ben sappiamo, è sempre pronta a portare motivi di divisione, e l'arte che non conosce frontiere, semmai limite amministrativo, geografico, anche politico, ma è un luogo di incontro, grazie all'arte di contaminazione, un palcoscenico su cui misurarsi alla conquista non solo di nuove ispirazioni, ma perché no, anche di nuovi mercati. Avremo Eric Dolphy da colonna sonora per questo confine permeabile. Qual è il miglior rappresentante tra le sonorità nel jazz che un Eric Dolphy d'avanguardia e nello stesso tempo di grande intersezione e qualità musicale? La mostra è curata da Liliana Carniellutti, Vania Greinsinig e Alessandro Quinzi, che ho contattato per dare approfondimento a tutto ciò. Allora, quando ho sentito il patriarcato di Udine, più vicino e in contatto con la Serenissima, ho pensato subito all'epoca e a questo aspetto ecclesiastico, che non è il papato, eh. Ma perché tutto ciò? Perché Venezia viene scomunicata quando il doge Grimani decide, nonostante il veto papale, il taglio di Porto Viro per evitare l'insabbiamento della laguna. Venezia non può prendere un'aggressione da Roma perché è in corso l'anno santo e Roma non può dichiarare guerra, si deve limitare a una scomunica. Ma per la Serenissima, al suo splendore, il doge Grimani, una scomunica val bene salvare la laguna e la stessa Venezia. Quindi la scomunica porta un motivo diverso di scala ecclesiastica e ci sarà un patriarcato, il patriarcato di Udine, che appunto in contrapposizione, se vogliamo, a dei territori di confine, ma come ho detto un confine molto più permeabile, con Gorizia, che era portata dagli Asburgo invece come motivo di attenzione anche culturale e artistica. Vedremo alcuni movimenti artistici che sono stati fondamentali, tra l'altro proprio nel periodo del Settecento. Venezia cade nel 1797, Quindi, come avrete intuito, lo stesso territorio della Serenissima viene così ristretto e ha dei contatti e delle vicinanze, non ha più quell'estensione dominante che ha avuto nei secoli passati. Ma intanto noi conosciamo questa esposizione nel dettaglio artistico, che è tra Udine e Gorizia, e lo faremo grazie alla voce del dottor Alessandro Quinzi, co-curatore della mostra. È una mostra fra Gorizia e Udine, quindi Giulia e Friuli, e fino al 7 aprile 2024 i protagonisti sono i pittori del Settecento tra Venezia e Impero. Siamo con Alessandro Quinzi, co-curatore di questa originale e ricca esposizione. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Da dove iniziare? Da Gorizia o da Udine, dottor Quinzi? Ma do precedenza a Udine, visto che devo rappresentare i colleghi anche, ovvero Vania Gransinic e Liliana Carlini Lutti, che hanno curato la sezione udinese della mostra. È una mostra che, come ho detto, comprende un dialogo tra Venezia e Impero Asburgico. Che epoca era? Beh, questo ovviamente è il Settecento, ma l'orientamento artistico come si svolgeva? Allora, schematizzando, prendere appunto chiaro qual è il concetto della mostra. Udine era centro, sede del patriarcato di Aquileia, che faceva riferimento, che era appannaggio delle famiglie nobili veneziane, e faceva riferimento, potremmo dire, immediato appunto alla dominante, quindi a Venezia. Accanto stava la contea di Gorizia, che invece dal 1500 era territorio ereditario degli Asburgo, che avevano all'interno dei loro possessi territoriali proprio la basilica di Aquileia, che dava appunto il titolo anche al patriarcato. E quindi la mostra si sostanzia su un dialogo tra due regioni contermini, che oggi stanno all'interno del contesto della Repubblica Italiana, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che appunto all'epoca avevano due, chiamiamole così, capitali diverse: Udine e la cosiddetta patria del Friuli con Venezia, la contea di Gorizia che invece guardava verso Vienna. E questa direttrice Vienna-Venezia era una direttrice molto ricca, molto anche caratterizzata da traffici, da rapporti molto intensi, anche perché Venezia nel Settecento sta vivendo il suo apogeo, che va così di pari passo con la fine poi di Venezia come entità politica, e Vienna stessa era molto interessata appunto a tutto ciò che succedeva a Venezia sul versante anche artistico. confine permeabili. Sentite questa Ode to Charlie Parker, come era partita in maniera classico barocca, per poi ritrovarsi in un bebop al flauto traverso Eric Dolphy da Far Cry, in collaborazione col grande trombettista, tanto talentuoso quanto sfortunato, Booker Little. Questo passaggio per me nella Ode to Charlie Parker rappresenta veramente una biografia in musica, oltre che di grande qualità, anche dal punto di vista emozionale molto intensa. La patria del Friuli, vicina a Venezia e l'impero asburgico che dominava il Goriziano, Trieste e la contigua Slovenia, lingue, tradizioni, visioni diverse, ma non per gli artisti. Troveremo un artista bolognese anche. Vedete che Bologna, la scuola del Settecento bolognese, è presente comunque in una estensione molto importante. La troveremo, e come, ce ne darà dettaglio il dottor Alessandro Quinzi nella parte di rappresentazione riguardante Gorizia. Comunque, detto ciò, tra i nomi spicca il Tiepolo per gli artisti nel rispondere alle richieste delle committenze friulane. Abbiamo Gian Antonio Guardi, Gian Battista Piazzetta, altro artista veramente sublime per quanto riguarda l'epoca, Francesco Pavona, e con Francesco Chiarottini, che entrambi molto molto produttivi lungo le due linee di confine tra le terre dell'impero e veneziane, insomma. E a tale proposito che darei un motivo di conversazione con il co-curatore della mostra che si tiene giustamente in due sedi tra Udine e Gorizia. Entriamo appunto in mostra allora con un percorso con continuità ma anche eterogeneo. Gli artisti come si presentavano, quali erano i temi, le correnti artistiche, ci può dire qualcosa di più? Allora, la mostra udinese ha un focus privilegiato sulla committenza ecclesiastica, appunto tenendo presente che Udine era sede appunto del patriarcato, e soprattutto gli ultimi patriarchi della famiglia Dolfin si erano molto impegnati sul versante artistico. Un nome su tutti, quello di Giambattista Tiepolo, insomma, che lavora a Udine con una certa continuità proprio per i patriarchi, e quindi è il versante delle committenze ecclesiastiche, che siano appunto patriarchi, che siano parrocchie confraternite o nobili altri che commissionano un'opera d'arte. Diciamo che il panorama è molto ricco e si può, come dire, in un certo senso incanalare su quelle che erano due alternative, appunto, da un lato la pittura di Tiepolo, dall'altra quella dei cosiddetti tenebrosi, su tutti il nome di Piazzetta, che di Tiepolo sappiamo fu anche uno dei maestri, e quindi presenta una selezione molto ricca di pale d'altare che sono attribuibili appunto a questi nomi anche ad altri artisti dell'epoca molto importanti, forse meno noti al pubblico, al grande pubblico, non so, come un Gaspare Tiziani, Francesco Fontebasso, ecco, oppure un altro personaggio molto importante udinese, Francesco Pavona, che acquisì fama soprattutto anche come pastellista e fu un tipico rappresentante del Settecento veneziano, viaggiando in tutta Europa, soggiornò per lungo periodo anche a Dresda, in Germania, ma fu anche in Portogallo, fu a Roma, fu a Venezia, amico del Salvo Carriera, si formò a Bologna, ecco, e quindi un tipico esponente appunto del Settecento appunto veneziano, insomma. Title track Far Cry da Eric Dolphy with the Booker Little dal disco appunto Far Cry per Prestige Record. Settecento, beh, esattamente, Piazzetta era un esponente molto importante per il movimento di cui non abbiamo mai parlato, se non che sfiorato citando l'immenso Caravaggio del tenebrismo, che è una corrente pittorica che è collocabile all'inizio del XVII secolo e poi va un processo di continuità. È la parte iniziale della pittura barocca ed ha una caratteristica principale come stile pittorico, è l'utilizzo dei contrasti tra il chiaroscuro in maniera molto forte. Come ho detto, l'ispirazione arriva da Caravaggio, ma il principale esponente della scuola fu lo spagnolo José de Ribeira, e questa tecnica, questa caratteristica di un contrasto forte è una delle realtà molto presenti all'interno dell'esposizione di cui stiamo parlando. Quindi da Udine, ovviamente con il patriarcato di Aquileia, la sede per quanto riguarda una vicinanza anche di chiesa con la Serenissima, che nel Settecento ha sì uno splendore, poi andrà decadendo esattamente nel 1797, vediamo che a Gorizia invece, come vi ho detto, l'attinenza è la presenza della scuola bolognese, e quindi ci spostiamo nell'altra sede espositiva. Per quanto riguarda Udine ho parlato del castello di Udine, per quanto riguarda invece la sede goriziana è una sede espositiva che non abbiamo ancora conosciuto, è un palazzo, esattamente Palazzo Attams Pettenstein, e già la nomea asburgica prende anche dal suono di questi nomi una presenza quanto mai concreta. Vediamo un po' come il percorso invece goriziano prende svolgimento. Anche qui c'è un focus sulle committenze, dove abbiamo messo in rilievo delle acquisizioni, come anche nel resto della mostra di Udine, acquisizioni come dire, degli studi negli ultimi 10-20 anni. Qua porrei l'accento sulla figura del conte Livio Lantieri, che collezionò artisti, oltre appunto al già menzionato Francesco Pavona, fu affascinato anche dall'arte del pastello di Rosalba Carriera, che nel 1728 giunse a Gorizia per incontrare l'imperatore Carlo VI, sceso da Vienna per ricevere l'omaggio degli stati provinciali goriziani, ma soprattutto per una, come dire, una questione che si lega nuovamente a Bologna, ovvero questo conte Lantieri ospitò nella sua residenza di Riffenbergo, oggi è Branik nella valle dell'Ipacco in Slovenia, Anna Borrini, figlia di Giovanni Antonio Borrini, pittore bolognese, che fu appunto educata dal padre, che molto probabilmente approfittò un po' troppo della sua bravura. A un certo punto questa figlia scappa da Bologna e trova rifugio proprio a Gorizia presso il conte Lantieri. Questa pittrice Anna Borrini ha avuto poi una vicenda, diciamo una fortuna artistica purtroppo molto sfavorevole, perché il castello di Riffenbergo durante la seconda guerra mondiale fu dato alle fiamme, e quindi sono pochissime le opere che sopravvivono, e in mostra abbiamo una Venere, che è la, in assoluto la prima mostra presentata al pubblico di questa pittrice, che morì vicino a Gorizia nel 1764, è nata appunto a Bologna nel 1700 invece. Per me è un'opera che, come dire, non è un'opera pittorica in realtà, anche questa è una prima assoluta per il pubblico italiano. Abbiamo in esposizione un modelletto con figure in cera e struttura architettonica in legno, realizzato nel 1712 da Antonio Baratta, uno dei più importanti scultori veneziani dell'epoca, che appunto nel 1712 si aggiudica la realizzazione dell'altare degli Asburgo, quindi della famiglia imperiale, avviene nella cripta dei Cappuccini, incordato con un altarista goriziano, Giovanni Bacassi. Premessa, i due nel 1711 realizzano l'altare della chiesa parrocchiale di Gorizia e l'anno seguente si aggiudicano appunto l'altare per gli Asburgo a Vienna. È un bellissimo, come dire, incipit in queste mostre che vivono appunto sui rapporti tra Venezia e Vienna, a cavallo di un confine che non era come il confine al quale eravamo abituati noi nel XX secolo, impermeabile, come dire, anche ostico verso le popolazioni vicine, ma era un confine assolutamente permeabile, e soprattutto sul versante artistico, ripeto, sappiamo che a Vienna c'era una forte colonia di artisti veneziani. Abbiamo citato Rosalba Carriera, Baratta, possiamo citare anche Bertoli, che fu un pittore appunto friulano, ma che visse e lavorò per la corte di Carlo VI a Vienna. E potremmo finire poi anche con Benkovic, che realizzò una buona parte della sua carriera a Vienna, per poi trascorrere gli ultimi 10 anni della sua vita a Gorizia. Ma di esempi ce ne sono veramente tanti. Sì, certo, è una domanda un po' così particolare che faccio quando mi appassiono nella conversazione. E una domanda invece logistica: tra le due sedi espositive, il numero di opere in mostra? Le opere in mostra sono oltre 200. Ovviamente bisogna tenere presente che il percorso appunto espositivo è centrato sui dipinti, ma non mancano disegni, non mancano incisioni, sia sciolte sia librarie, non mancano, come ho accennato, anche pezzi di scultura. In un vicendevole rimando all'interno delle arti, e in questo contesto, come dire, macroeuropeo, letto attraverso l'esperienza di un territorio molto ben definito. Io la ringrazio tantissimo e le auguro buona giornata e buon 2024. Grazie altrettanto, anche lei, grazie. Ma una mostra a Roma, quell'altra tra Gorizia e Udine. Ecco, io ne approfitto quando ci sono questi momenti di stacco per trovare queste, seppur non vicinissime, ma importanti perle per conoscere o degli spaccati storici, come la Venezia nelle zone di confine tra Friuli e Giulia, tra Patriarcato e Impero Asburgico, per conoscerne la storia attraverso l'arte, o avere la possibilità di portare in percorso nel Novecento una figura come Marta Rocher nel mondo della fotografia, che merita indubbiamente, ma che non ha ricevuto i riflettori e il podio dovuto. Ecco, la rubrica in mostra è anche questo, oltre che la selezione musicale portata sui 103.1 con attinenza ai temi raccontati e narrati dalle voci coinvolte nella produzione di queste esposizioni. Volevo portare anche Marcel Duchamp al Guggenheim di Venezia, ma difficilissimo ottenere motivo di conversazione, ma non demordo, continuo nella mia tenacia per arrivare alla selezione di esposizioni nella rubrica dei 103.1. cerco sempre a livello nazionale il meglio per avere nella faretra del Breakfast Club un'estesa visione artistica e completa. giovedì prossimo torneremo in mostra. Ovviamente io vi auguro un buon ascolto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani con un last minute dedicato all'arte, a San Giovanni in Persiceto, questa volta più vicino a noi. Dopodiché avremo tre teatri per te a Crevalcore e poi un'apertura di stagione nella seconda parte, cioè 2024, prima parte 2024, la stagione però già iniziata a termine 2023. Sto parlando di Teatri di Vita. Una buona giornata, un buon giovedì, tra pochissimo Edipeo Enciclopedico, Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, oggi con Francesca Clementoni. Il Grande Rock con Andrea Cozza e Angela Zocco, che riprende il format del giovedì. Questa la mattinata dei 103.1. Per colazione alle ore 7 vi aspetto con il Breakfast Club e dal vostro William Piana un caloroso abbraccio, un buon ascolto e una buona giornata. A domani, ciao a tutte, ciao a tutti.